cuenta. Cuenta ella ya contaba un puente de otro lado. Reina Mayo se le chula. Reina Mayo se le chula, narica de mero a mi canta. Vayo. Come on, sauce man. Ma tu arrivo qua in io. Siamo la natura evaco. Come on, vai che vanno. Quanta è la cosa? Ma un po' a chi le ha calando? Ma un po' a chi le ha calando? Ma un po' a chi le ha calando? Ma un po' a chi le ha calando? Chi lo cava fare? Come on, tanka. Se ne andate a vendere, io le ho fatto sana. Se ne ha fatto culo. Kila do kinda mwaka paso. Kila do kinda mwaka paso. Mujikuta wako kwele. Nove tota. Nove tota. Nove tota. Nandi kiruke. Nandi kiruke. Sozi kiruka. Nove kiruke. Mayo mwajira ye. Kama na kia kiri masosu. Apa mafasi. Conta e ia conta, conta e ia conta. Wa upo akido kalando mayo tanda. Conta va fasi. Endeje ni vane mlekiro kasana. Conta mayo, conta. Conta no ia conta. Wa bekiro kalande kiruke mayo tanda. Ego tu a ira kwa kaseme, mayo ndata e. We mukajiana Rosemary, we mukajiana Rosemary, wa mabika mama eri. Nove kiruka, nove kiruka. Nada que nunca nadie quiero que me odie una tanda. Tú vale o así a la cumbuedu. Tú vale. Tú vale o así a la cumbuedu. Mayo, tata yo. Pero nada, yo muerte.